Io sono contrario per principio a tutte le leggi contro la libertà di opinione e di espressione del pensiero, quindi teoricamente anche le leggi che condannano il fascismo o il negazionismo della Shoah le trovo pericolose proprio per la democrazia. Questa legge in particolare è veramente gravissima, perché è una legge che prevede l'impossibilità di giudicare, di criticare un governo che è esplicitamente, chiaramente sotto gli occhi di tutti un governo criminale, cioè l'abbiamo visto per mesi commettere crimini di guerra, appunto paragonabili se non addirittura peggiori a quelli di quelli commessi dall'Italia fascista nel ventennio, e oggi non si può, secondo questa legge, non si può dire che quelli sono crimini di guerra, cioè è veramente, siamo al paradosso, è il capovolgimento della realtà. Io credo che veramente questo tipo di leggi siano in linea non tanto col fascismo ma con il 1948 di Orwell, cioè siamo veramente alla neolingua, per cui chiamiamo sicurezza un decreto che in realtà crea insicurezza e paura nei cittadini, perché permette alle forze dell'ordine di commettere qualunque abuso senza essere punite. Chiamiamo appunto un decreto antisemitismo un decreto che in realtà crea antisemitismo, perché impedisce di criticare un governo che è contro gli ebrei, perché è un governo che mette in pericolo la vita dei propri cittadini scatenando guerre ovunque nel mondo. Quindi è veramente il capovolgimento della realtà e del buon senso.